a long time ago. Ma questo, Giuseppe, è niente rispetto a quello che abbiamo in serbo per i nostri ascoltatori. Scusa, cosa vuoi dire? Che finora ci siamo annoiati? No, no, per carità, i tuoi pezzi musicali sono uno schianto. Ma per schiantarsi dal ridere bisogna rispolverare qualcosa tipo una vecchia cover del Califfo. Sentiamo. Sì, mi piace il guanciale. Tonetto dice che però fa male. Mi viene sempre dentro una gran pena quando sto a dieta e tu mi invidi a cena. Dimagrire non mi importa un cacchio. Che vita è se poi non c'ho l'abbacchio? Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è soia. Gioia, ma soia, soia, soia, maledetta soia. Sì, vabbè, il primo bacio, però voi mette due spaghetti al cacio. Io so che tu mi trovi fuori moda, mi piace tanto il sugo con la coda. Quando sto a dieta la mia vita stenta, mi manca spuntatura, troppo lenta. Sì, d'accordo, ma poi, everybody, tutto il resto è soia. No, non c'è più una gioia, ma solo, solo soia, maledetta soia. Animal House. Notizie, interviste, attualità. Cari, cari polli di allevamento, con i vostri stivaletti gialli e le vostre canzoni. Dunque, Ivan, tu quindi hai lavorato in un macello. Hai scelto tu di lavorarci o è capitato? L'ho scelto per necessità. Io avevo bisogno di lavorare per vari problemi che avevo e quindi ho accettato di lavorarci senza rendermi conto comunque prima di cosa fosse in realtà. Cosa hai osservato all'interno di questo mattatoio? Che cosa accade? Ma accade che tu arrivi al mattino presto, vedi una distesa bianca di animali che pulsano, che vivono, si muovono, e alla sera, finito il lavoro, invece ti ritrovi con tante teste, tante zampe, i vasconi giganti, vedi proprio, diciamo, una vita che purtroppo non c'è più, cioè. Quante persone ci lavoravano? Ma ci lavoravano 120 persone circa. In quali mansioni, quindi, più o meno? Ma un po' di tutto, chi era la catena, diciamo la catena di smontaggio in questo caso purtroppo degli animali, a chi era gli uffici, chi caricava i camion, veniva fatto tutto, arrivava il pollo vivo e poi usciva confezionato. Tu in particolare che mansione avevi? Io praticamente estraevo i polli vivi dalle gabbie, prendendoli per le zampe, li infilavo in queste staffe d'acciaio, dove praticamente il pollo resta appeso a testa in giù. Vorrei sapere da te come funziona la catena, quindi arrivano i camion, scaricano i polli. Sì, vengono scaricati questi bancali di gabbie dove ci sono dentro diversi polli costretti a stare chinati, schiacciati, perché non riescono a stare in piedi. Dopodiché i bancali vengono caricati con dei muletti delle pedane che si possono alzare e pian piano vengono svuotati partendo dall'alto, e appunto l'addetto a attaccare questi polli, man mano che svuota le gabbie, le alza in modo che, partendo dalla prima in alto fino all'ultima in basso. Dopodiché ovviamente cambia la pedana e nel frattempo chi chi guida il muletto ripiazza un altro bancale di polli su quella che hai appena lasciato. E i polli che vengono estratti da questa gabbia dove vengono messi esattamente? Vengono appunto infilati per le zampe in queste staffe metalliche che rimangono praticamente appesi con le zampe incastrate in queste staffe a testa in giù. E come reagiscono gli animali in queste condizioni? La maggior parte sbattono continuamente, sbattono, cercano di liberarsi, cercano di tirarsi su, la maggior parte che la facevano addosso, cioè perché veramente in quel momento la paura gli provocava questa reazione, il classico modo di dire che si te la fa addosso. C'è rumore? È molto rumoroso? Sì, moltissimo, moltissimo. Già i polli sono rumorosi di loro, poi nel momento in cui vengono estratti dalle gabbie e vengono infilati, diciamo, sulla catena, logicamente, diciamo che gridano. Adesso la terminologia giusta non la so. Dopo che cosa succede? Quindi loro partono appesi a testa in giù, certo, ed è certo automatizzato poi il processo? Questa catena dal momento che parte nel giro di un paio di minuti comincia a riempirsi. Diciamo la tappa successiva è appunto lo stordimento, passano sotto degli spruzzi di acqua con una piccola scossa elettrica assieme, in modo che il pollo rimane stordito, rimane fermo col collo verso il basso senza tirarsi su, perché subito dopo c'è appunto la macchina che gli fa il taglietto alla gola, non gli taglia la testa nettamente, però gli fa un taglio per fargli perdere sangue. Quindi li vogliono ammansire affinché subiscano il taglio tutti nella stessa posizione? Niente, poi da lì c'è tutto un percorso per fargli perdere sangue, quindi fanno un lungo percorso in questo reparto dove viene raccolto tutto il sangue, e quando escono da lì entrano in una vasca con dell'acqua bollente. Ma sono morti o sono vivi in quel momento? In teoria dovrebbero essere morti, poi la certezza non si ha. A volte appunto capita che la persona che controlla la macchina magari sbaglia, non la controlla bene, e quindi certi polli non si riprendono dallo stordimento e magari poi finiscono purtroppo vivi in queste vasche, e quindi insomma è ancora più atroce la cosa. A vasche di acqua bollente? Di acqua bollente, appunto, per ammorbidire la pelle per poi essere sellati. In che condizioni arrivavano questi animali? Arrivavano molto spaventati, molti arrivavano con ali se non rotte, comunque storte. Molti di loro avevano le zampe completamente deformate o storte. Arrivavano di polli che sembravano quasi paralizzati a volte, che proprio non si muovevano, però comunque facevano, tra virgolette, numero, facevano peso e quindi andavano bene. Quanto tempo avevano questi polli? Quante settimane? Andavano dai 20 giorni ai 40, non di più, proprio quelli che venivano macellati più grossi, diciamo, che arrivavano intorno ai 5 kg, avevano al massimo 40 giorni, ma in genere anche molto meno. Senti, poi mi hai detto che ogni tanto arrivavano dei carichi particolari, cioè le galline da uova. Sì, infatti, questi animali qui che caratteristiche avevano rispetto ai polli? La maggior parte di loro erano spennate. Queste erano molto più aggressive, erano molto più agitate, molto più nervose, e comunque avevano spesso diversi segni sul corpo che, tra l'altro, essendo, diciamo, senza piume, notavi, erano vari segni, anche queste molte con le ali che sembravano addirittura tagliate. Perché erano conciate così male le galline da uova? Ma perché comunque gli veniva tagliato il becco per evitare che si beccassero, perché probabilmente vivendo nelle batterie, diciamo, dove vivevano, c'era molta più aggressività fra di loro, perché quando comunque penso vivi una vita così ristretta in uno spazio così piccolo e così, lo stress è maggiore, quindi tendevano a diciamo, magari arrivare a una sorta magari che di cannibalismo fra di loro. Quanti animali macellavate al giorno? Quanti polli? Ma lì intorno ai 40.000 polli al giorno, quindi 8 ore è un ritmo ben elevato. Cos'è che ti pesava di più nel tuo lavoro? cosa mi pesava di più? Pesava praticamente mandare a morire degli esseri viventi. Poi un po' per necessità, un po' per il tipo di lavoro, per il ritmo, per lo stress che subivi, arrivavi veramente al punto di a volte di scordarti che erano esseri viventi. È brutto da dire, ma qualche momento in cui detestavo il pollo che me la faceva addosso, ce l'ho avuto, però poverino. Quindi tu dici il tipo di lavoro e l'ambiente alla fine ti desensibilizzano, cioè ti portano comunque a considerarli oggetti. Senti, poi mi hai raccontato che a un certo punto te ti sei messo anche a fare come dei piccoli boicottaggi. Beh sì, quando arrivavano questi camion con queste galline che praticamente venivano mandate al macello perché non producevano più abbastanza uova o uova come dovevano produrre o producevano gli lizi, e niente, chi praticamente comandava ti dava una vaschetta dove volevano che mettevi le uova che trovavi, perché comunque queste galline nel trasporto, ok, qualche uovo lo facevano ancora, quindi volevano che tu mettevi le uova per poi rivenderle, e io le rompevo tutte. Perché lo facevi? Qual era, diciamo, la cosa che ti infastidiva di quelle uova? Perché comunque per loro era sempre soltanto lucro, era sempre soltanto soldi, cioè era proprio il voler guadagnare, sfruttare l'animale completamente. E lì veramente quando, mi ricordo quando arrivò uno degli ultimi camion di galline, diciamo degli ultimi periodi in cui ho lavorato, lì veramente la sofferenza è aumentata, perché comunque vedevo appunto che per loro, oltre alla gallina, che l'uovo doveva essere comunque venduto, era un continuo sfruttare l'animale, e questo diciamo che è stata, diciamo, una delle gocce che ha fatto traboccare il vaso. Quali conseguenze ha avuto su di te questa esperienza, soprattutto sulle tue scelte, sul tuo stile di vita, vorrei sapere? Ho veramente chiuso completamente con qualsiasi alimento di origine animale, ho cominciato a provare fastidio anche per tante altre cose, come vedevo un pezzo di carne era praticamente mi riportava alla sofferenza dell'animale, vedevo proprio l'animale che soffriva, ma lo stesso nell'abbigliamento, in tante altre cose. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.